Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, what's the secret part? The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli ascoltatori. Oggi siamo di nuovo qui in diretta per la prima volta dopo direi diversi mesi, non ricordiamo quanti, che è meglio. E sono qui Addu, qui con voi a tenervi un po' di compagnia per... vedremo quanto, vedremo. Una sorpresa, lasciamola come una sorpresa. E quindi appunto riniziano le dirette della trasmissione Nervature. Come sicuramente già vi ricorderete benissimo, perché siete super fedeli ascoltatori, questa trasmissione era prima fatta da me, ma non solo, da tante altre magnifiche anime gioiose e bellissime che per ora non sono con me, per oggi sono da sola, ma chissà, vedremo. Comunque cercherò quindi di lo stesso tenermi compagnia, anche se forse sarò meno divertente, ma vabbè, semmai mettete in sottofondo, fate finta di ascoltare, come volete. E quindi siamo qui con Nervature, che è la trasmissione che vi chiacchiererà, si spera, ogni settimana, poi vedremo ogni quanto riuscirò a mandarla avanti. Comunque vi chiacchiererà di piante, di come funzionano, di cosa sono, di cosa scorre dentro di loro. Infatti il nome della trasmissione non è scelto a caso, e di come vengono usate, di qual è il loro rapporto insieme a noi esseri umani un po' scortesi a volte, e tutto ciò che, vabbè, si può collegare a questo vastissimissimo argomento. Quindi spero che siano cose che vi interessino. E oggi l'argomento di questa puntata magari vi può sembrare un po' out subject, come si dice, insomma un po' fuori, ma in realtà no. Cioè, vabbè, diciamo che effettivamente l'ho scelto perché mi pigliava bene, quindi quello è il motivo fondamentale, ma comunque è collegato. Parleremo di ingegneria genetica, aiuto. È un po' un parolone che mette paura, ma non vi preoccupate, tanto si faranno le cose in modo semplice. E, perché c'entra? Perché sempre di biologia si parla. Tra l'altro l'ingegneria genetica, vabbè, sono tutte scienze, studi che vengono portati avanti a tanti anni su vari esseri viventi. E tra questi esseri viventi un grande posto viene dato alle piante. Per quali ragioni? Vabbè, un po' varie, un po' sicuramente per ricerca, vabbè, per questioni economiche, quindi perché no? Perché non avere una pianta di vite che non si ammala alla peronospora? Ma può far comodo, magari le produzioni si alzano, gli introiti si alzano, ci sta. Oppure anche perché magari sono esseri che noi reputiamo molto lontani dalla nostra empatia e che quindi, diciamo, possono essere più soggetti a esperimenti, per esempio. Vabbè, insomma, ragioni varie. Comunque, prima di iniziare a entrarmi in questo noioso argomento, ovviamente vi ricordo tutti i recapiti della radio. Quindi, ripeto, siamo su Radio Wombat, la radio libera di Firenze, e ci potete ascoltare dal sito radiowombat.net. Da lì trovate il bottoncino giallo per ascoltarci in streaming. nella stessa pagina del bottoncione giallo della diretta troverete anche il link per accedere al pad. Il pad è uno dei modi che noi usiamo per parlare con voi e sentire quello che ci avete da dire, ora da scrivere in questo caso, perché è come se fosse un foglio di testo, quindi voi lo aprite, vedrete le robe scritte, cliccate, iniziate a scrivere, basta, senza inviare, senza nulla, vedo subito cosa mi state dicendo, insomma. E, altrimenti, per chi magari è un po' più ricercato o chi semplicemente sta viaggiando in macchina in questo momento, può sintonizzarsi sulle onde cosiddette mediocri, oppure AM, sul 1359. Questo è un altro meraviglioso modo di ascoltarci. E cos'altro? Al pad potete anche accedere tramite semplicemente scrivendo il link diretta wombat.vado.li e subito vi si apre il pad. E quindi niente, non aspetto altro che vedere i vostri saluti. Allora, facciamo così. Vi do un piccolo accenno, diciamo, dell'incipit di questa trasmissione, di questa puntata, e poi però ci rilassiamo un attimo, perché insomma, a fine giornata siamo tutti stanchi, quindi vi metterò subito una musichina un po' per staccare, ma anche per divertirsi, sentirete. Allora, cosa mi ha portato a scegliere questo assurdo argomento per la mia puntata? Una notizia che ho visto. La notizia è la seguente. Messo in commercio la prima verdura prodotta da una specie che è stata editata geneticamente. Tan tan tan. Niente, questo è l'incipit, ragionateci, fate finta sia un mantra, messo in commercio la prima verdura prodotta da una specie è stata editata geneticamente, ok, così, va bene. E nel frattempo però vi delizio un po' con una prima musica un po' per rilassarsi e divertirsi. A tra poco! Yeah. E allora vi siete scaldati un po' con questa musichina? Questa era Put Your Hands on Me di Joss Stone, molto energica lei, molto così, molto gioiosa, con questa voce quasi nera. E invece lei è bianca, molto molto bianca, quindi niente a che vedere, ma la sua voce dice altro ed è bello così. Allora, siamo sempre qui, quindi su Nervature, la trasmissione vi parla di piante, di cosa sono, chi sono, come vengono usate, qual è il rapporto tra loro e noi. E io sono Addu, e sì, lo so, sto un po' ripetendo, ma è giusto così, magari qualcuno si è collegato da poco e io ho un assoluto bisogno di farvi sapere chi sono, quindi così, va bene così, ecco. Allora, avevamo detto che quindi per questa prima puntata di questa nuova stagione, boh, se si vuol chiamare così, di Nervature, ho scelto un argomento frizzante che è l'ingegneria genetica. Come si era già detto, l'incipit di questa puntata è una notizia che avevo sentito, che è quella che appunto è stato messo in commercio una verdura, vedremo quale, una super gustosa verdura, prodotta da una specie, quindi appunto è una specie che è stata editata geneticamente. Allora, giusto per subito svelarvi, questa si tratta di un'insalata gourmet. Ora, scommetto che avete già la bava alla bocca, dai, con un'insalata gourmet, voglio dire. Cioè, starete sicuramente uscendo, spengendo la radio, scappando al supermercato per cercare questa insalata gourmet, perché non ne potete fare a meno. Vabbè, a parte questi scherzi non necessari, la notizia in realtà è interessante. È interessante perché comunque significa che è stata fatta ovviamente innanzitutto ricerca, poi esperimenti e poi anche proprio fatti, per cui davvero è stata presa una pianta, quindi una specie, una cosa che già esisteva, non vi dico in natura perché probabilmente era già stata selezionata dalla selezione artificiale, vabbè, ma comunque esisteva, è stata presa, guardate il laboratorio, aperto tutto il suo DNA, ovvero tutto il suo meraviglioso codice genetico, quindi tutte quelle sequenze di triplette, adenina, citosina, timina, guanina, no? Ci si ricorda dagli studi del liceo. Quindi sono state tutte aperte, viste, guardate, analizzate, annusate, non so cosa, e poi si è deciso di modificarle. Sinceramente non so bene come, non so se hanno fatto delle modifiche un po' a caso e hanno visto il risultato, o se invece sapevano precisamente dove andare a parare, ma insomma vabbè, cambia poco. E quindi abbiamo questa nuova specie che è stata, ripeto, editata geneticamente, e che è un termine non a caso, è abbastanza preciso. Si dice editata e non modificata, sono due cose diverse, perché intanto per farla breve, così giusto per iniziare, una modifica genetica è una cosa, diciamo, un'operazione invasiva, se vogliamo metterla così, mentre invece un editing genetico è qualcosa di, sempre fra virgolette, più blando. Poi andremo meglio a capire come. Intanto lasciamo la cosa sospesa così. Quindi, appunto, parleremo di ingegneria genetica. Che cos'è? Vabbè, lo sapete o comunque l'avete già capito da quello che ho detto, è prendere il codice genetico di una certa specie, che può essere animale o vegetale, o dei batteri magari, o dei virus, quello che è, e appunto magari sequenziare questo codice genetico, o comunque fatto sta di editarlo, modificarlo, metterci le mani in generale. E, se vogliamo, l'ingegneria genetica può essere un po' spiegata a grandi macro categorie, che sono la transgenica, e, oppure invece altri tipi di metodi che adesso vengono chiamati comunemente TEA, per esempio, oppure NBT. Allora, la transgenica, questo è un parolone un po' strano, ma fondamentalmente sono gli OGM, quindi questa è una parola che abbiamo sentito molto più spesso, e OGM, ovvero organismi geneticamente modificati, anche qui vedete appunto modificati, non editati. E infatti che cos'è l'OGM? L'OGM è quando si prende una parte di codice genetico, quindi di DNA, da una certa specie X e si butta dentro un'altra certa specie Y, va bene? Quindi cosa succede? È, diciamo, una modifica un po' grossolana, nel senso che si va ovviamente ad avere delle conseguenze, ma quelle conseguenze non le sappiamo sempre perfettamente. Tant'è che infatti, vabbè, avrete sicuramente già sentito anche più di me di vari scandali usciti perché c'era quella certa magari specie di mais geneticamente modificato che sembrava all'inizio una bomba perché resisteva a quelle malattie o parassiti, ma che poi alla fine all'interno di quell'habitat in cui veniva coltivato si scopriva avere una serie di altre problematiche ancora più gravi e che quindi andavano a destabilizzare ancora di più tutto l'habitat. Quindi appunto l'OGM sono modifiche un po' pese, mettiamola così. E, per esempio, infatti, più volte viene preso del materiale genetico da un essere vivente e messo in un altro e non c'entra assolutamente niente. Tipo, classico esempio, viene preso dai batteri e messo dentro una pianta, per esempio. E magari da batteri perché appunto hanno DNA più corto, quindi è più facilmente analizzabile. Vabbè, queste cose qua. Allora, gli OGM, così giusto per fare un... mi dispiace, noiosa, ma necessaria, panoramica generale, sono appunto un argomento caldo, nel senso che, per esempio, in Europa non si possono tendenzialmente usare, però può essere, cioè, da fare richiesta alle direzioni generali dell'Europa, dell'Unione Europea, e uno Stato che fa richiesta per avere un'autorizzazione per coltivare quella certa specie modificata geneticamente, scusate. Se l'autorizzazione viene data, allora si può coltivare. E poi, oltre a ciò, ogni singolo Stato ha un po' delle regole a parte, cioè questa è la macro regola di tutta l'Unione Europea, poi ogni Stato un po' se la vede così, un po' come gli pare. In Italia, per esempio, di base sono tutte vietate le coltivazioni di OGM, da quel che ho capito. Nonostante ciò, però, parentesi, comunque non è vietata la vendita di prodotti di specie OGM. Quindi al supermercato ci sta che uno le compri. Non so, forse anche senza saperlo, io non so se ce lo scrivono sul bigliettino della verdura, se è OGM oppure no, sinceramente non lo so. Però insomma ci può stare che uno compri roba OGM, mentre invece non si può coltivare. E, sempre a proposito di regolamenti dell'Unione Europea, riguardo a tutta quell'altra grande branca dell'ingegneria genetica che abbiamo accennato, quindi TEA o anche chiamate NBT perché sarebbe in inglese, quelle lì invece per ora sono vietate in Unione Europea, però siccome sono, come vedremo adesso, perché cercheremo di entrarci più nello specifico, siccome sono delle tecniche molto diverse dall'OGM che vanno proprio sì a editare il DNA, però in modo veramente molto più puntuale, si sta discutendo sul fatto che magari la normativa può essere differenziata fra OGM e TEA, perché effettivamente appunto essendo cose diverse, uno può fare magari uno scalino un po' intellettuale e entrare un po' più nella conoscenza dell'argomento e giudicare più approfonditamente. Quindi spero che non sia troppo pallosa a seguire questa puntata. Cercherò comunque di intramezzare con vari pezzettini musicali, ma per ora andrei un goccino avanti. Quindi l'altra branca di cui stavamo parlando, delle TEA, allora le TEA si chiamano così perché è l'acronimo di tecnologie di evoluzione assistita, che rende abbastanza bene, devo dire, la spiegazione di che cosa sono le TEA. Oppure vi dicevo in inglese NBT, ovvero New Breeding Techniques, che in realtà è un po' strano, cioè nuove tecniche di allevamento, boh, arrivano proprio dritti al punto gli inglesi, non lo so, o gli americani, non so chi ha dato il nome. Scusate, volevo dire, a proposito di America e Stati Uniti, vi dicevo appunto, le TEA ancora in Europa non sono consentite, però invece negli Stati Uniti sì. E infatti è per quello che vi ho letto la notizia di prima di questa nuova insalata gourmet che è uscita sul mercato, proprio perché appunto negli Stati Uniti si possono coltivare, si possono vendere, insomma, forse ci saranno dei regolamenti un po' più precisi, ma insomma tendenzialmente è possibile, ecco. Allora, quindi, cosa sono queste TEA? La differenza fondamentale tra le TEA e tutto il resto, quindi gli OGM, è che le TEA usano materiale genetico da specie sessualmente compatibili. Quindi non posso assolutamente prendere un pezzo di DNA dal batterio e metterlo nella pianta, perché sono sessualmente compatibili? No, cioè un batterio e una pianta si possono accoppiare? Non mi risulta, poi se qualcuno scopre di sì sono molto interessata, ma non mi risulta. Quindi serve prendere, che ne so, un'insalata o un'altra insalata, probabilmente, non so, forse uno può sforare tra rucola e insalata, ma non so se sono sessualmente compatibili, non credo in realtà. Quindi, tra varie tecniche delle TEA, vabbè, ne diciamo due in realtà, poi magari ce ne saranno altre, ma insomma, sono una è la cisgenesi, si chiama, ovvero quella che permette di inserire delle sequenze di DNA che vengono, appunto, come si è detto, da un individuo, da un altro individuo sessualmente compatibile. Quindi, cosa faccio? Piglio, rimango sul mio solito esempio, quindi piglio un'insalata, li guardo in modo molto penetrante il suo DNA, in qualche modo capisco che c'è quelle tot sequenze che mi interessano, perché magari so che quelle fanno sì che la foglia di insalata abbia le cellule con tanta acqua e che quindi sia particolarmente tenera, quando uno la morde è particolarmente morbida, tenera, che ne so. Quindi piglio quelle sequenze e le sostituisco a quelle corrispondenti sequenze all'interno di un'altra insalata, sessualmente compatibile, appunto, quindi che vuol dire che se io prendessi, che ne so, il polline della prima insalata e la metto nei fiori femminili della seconda insalata, viene fuori un seme che è non sterile ma fertile, quindi io lo rimetto in terra e mi cresce una nuova insalatina che sarà diversa dalla madre, diversa dal padre, ma sempre un essere vivente riesce a venire fuori. Quindi questa era la cisgenesi. Qual è invece l'altra tecnica di all'interno delle TEA? Quello che si chiama genome editing, quindi appunto l'edit, come si dice, editare appunto il genoma. E all'interno di questa roba esiste la CRISPR, che già sicuramente avrete sentito nominare, di cui già vi svelo che parleremo più nello specifico fra poco. Quindi, qual è la differenza tra cisgenesi e CRISPR o genome editing? È che il genome editing permette di, fondamentalmente c'è un aggeggino, vedetela come un animaletto se vi piace, non è ovviamente un animale, è solo per rappresentarvelo più nella mente. Quindi questo aggeggino che entra dentro il DNA di quello che vi pare, diciamo sempre insalata, perché oggi ci piacciono le insalate. Guai a voi se vi mangiate la melanzana a cena, mi raccomando, mangiate l'insalata. Quindi entra dentro il DNA dell'insalata e sa, perché c'è una parte di lui che lo guida, come uno spirito guida verso un preciso punto del DNA, arriva lì e zac, taglia via, leva roba, taglia proprio. Quindi, innanzitutto, il genome editing fa questo, quindi leva cose. Poi è anche vero che possono essere riaggiunte, però è una tecnica proprio che funziona diversa dalla cisgenesi, quindi per quello viene separata. Innanzitutto, comunque, ricordiamoci che, appunto, taglia via. perché vi dicevo anche che è molto meno invasivo, fra virgolette, queste tecniche? Perché noi sappiamo dove far andare questo aggeggino che taglia. Cioè, sappiamo precisamente quali sono le sequenze, dove si trovano, e quindi sappiamo precisamente cosa vogliamo tagliare. Sappiamo precisamente, ora precisamente non lo so, però dovremmo sapere che cosa quelle sequenze inducono, quindi quali proteine fanno sintetizzare, insomma quali conseguenze fenotipiche hanno nella pianta, effettive insomma hanno nella pianta. Quindi da quando si ha questa nuova magnifica tecnologia della CRISPR si è avuto davvero una vera rivoluzione nella scienza. Ora poi magari spero di riuscire a far passare il perché è così tanto una rivoluzione, però intanto vi dico che è perché sono nuove tecniche più, innanzitutto più facili di quelle che già avevamo, perché prima della CRISPR comunque potevamo fare genome editing tramite delle proteine che trasportavano degli altri atomi, delle altre robe, insomma, però era molto complicato, era lungo. Invece con la CRISPR si accorciano i tempi, si semplifica proprio tutto il procedimento, quindi automaticamente diventa anche una cosa molto, molto, molto poco costosa, e tant'è che esistono addirittura dei kit. Io non sono ancora andata a cercarli, ma lo farò assolutamente, forse non a comprarli, ma intanto a cercarli, questi kit da internet che, boh, dovrebbero far fare la CRISPR fatta in casa. Io non so come cacchio dovrebbero funzionare. Ora, serve comunque un laboratorio, cioè non è che mi metto a fare i muffin oggi, invece no, non faccio i muffin, faccio la CRISPR. No, serve comunque un laboratorio, però insomma dovrebbe essere una roba molto accessibile. E quindi appunto questa fantomatica insalatina gourmet di cui si parlava all'inizio, che è stata inserita all'interno del mercato statunitense e quindi anche dei supermercati, no? Quindi proprio alla vendita, è stata prodotta tramite questa tecnologia CRISPR. Quindi, vabbè, quello che si è detto finora, insomma, sono andati lì, hanno tagliato pezzetti, hanno preso da un'altra insalata, eccetera. E sembra essere particolarmente buona. Ora io non lo so quanto mai può essere buona l'insalata, cioè a me piace l'insalata, io me la mangio molto volentieri, non sono fra quei carnivori che la satanizzano assolutamente, però mi dico, boh, quanto mai potrà essere buona l'insalata. Vabbè, si vede che c'era un impellente bisogno degli statunitensi di, non lo so, forse iniziare a mangiare sano a un certo punto, non lo so. Vabbè, diciamo che sì, io mi fermerei. No, sto diventando noiosa. Mi fermerei un attimo e vediamo. Sì, continuiamo dopo, direi. L'unica cosa, vi volevo dire una roba così, è diciamo una pillola che mi piaceva condividere, perché appunto l'ho vista usare come metafora da altra gente, conferenze, cose, mi è piaciuta, ve la butto lì, non che serva all'interno del mio discorso di questa grande super spiegazione, ma ve la butto lì. Il DNA, che è una roba, vabbè, conosciamola tanto, ma comunque ci sta che non sia un argomento così vicino alla vita di tutti, nel senso, cioè, sì, abbiamo studiato che è una doppia elica con le triplette, eccetera, magari ce lo siamo anche scordati facilmente. Però anche se ci siamo scordati a livello chimico che cos'è, vediamola più a livello filosofico. Quindi il DNA è come se fosse un linguaggio. Cos'è un linguaggio? Una lingua, quindi mettete l'italiano, il francese, quello che vi pare, è un insieme di parole, però le parole sono composte da lettere, quindi abbiamo innanzitutto un alfabeto. Quelle lettere sono messe insieme appunto a fare parole che vengono usate, una parola insieme a un'altra, non a caso, ma con delle regole. Allora lì che cosa abbiamo? Abbiamo la grammatica, che ci dà delle prime regole. Ma ce ne abbiamo anche altre, che sono per esempio l'ordine in cui si mettono i vari elementi all'interno della frase, e lì si parla di semantica. Quindi così magari anche forse sto semplificando, ma diciamo il linguaggio è diviso in queste tre cose: alfabeto, grammatica e semantica. Vedete un po' il DNA un po' nello stesso modo. Quindi abbiamo le basi azotate, quindi le adenina, timina, citosina, guanina, che sono come l'alfabeto, che poi vengono messe insieme a fare delle triplette, e quelle triplette ognuna vuole dire qualcosa, nel senso ognuna sintetizza una certa cosa, e allora lì magari si iniziano a creare le parole, perché da più triplette si fa una proteina, quindi magari la proteina può essere intesa come una parola, però allo stesso tempo non sappiamo poi tutte queste proteine che cazzo stanno a fare nei nostri codici genetici, cioè qual è, cosa portano poi a livello effettivo, fenotipico, all'interno dei vari esseri viventi. Quindi si inseriscono tutta una serie di altre regole che, tra parentesi, non sappiamo, cioè ne sappiamo pochissimo veramente, però tutta una serie di altre regole che ci stanno a dire da cosa è composto un gene. Il gene è un po' come se fosse l'ordine. Io ti ordino di fare questo, tipo di darmi gli occhi blu, di darmi gli occhi marroni o di fare una qualsiasi altra cosa. E quindi il gene è il risultato di un casino mostruoso tra alfabeto, grammatica e semantica. Eccoci qua. Non lo so, a me mi piaceva come metafora, diciamo che comunque mi aiuta a vederla in modo un po' più semplice. Chissà, magari aiuta anche voi. E che dire, farei decisamente una pausa, perché è sicuramente giunto il momento, e vi butto lì questo secondo carino brano di Mo Horizons, Como EOR, che magari già conoscete, eh. Dança, essa magia dos movimentos em harmonia com Deus. Essa magia dos movimentos, os movimentos nossos, como é o ar. A dança está nos passos do Bumba, meu boi. A dança está nas rodas de cirandas, no compasso do maracatu, no grito do maculelê, no balé da capoeira. Olha o cheiro da poeira, no bate-pé do calango tango, calango tango. No bate-pé do calango tango, calango tango. Levanta, calango tango. Calango tango. Calango tango. Calango tango. Nasceu pra ser livre como é o ar. No ritmo do maculelê, maculelê. No bate-pé do calango. Dai, sentiamocene un'altra, sentiamocene un'altra prima di ripartire, no? A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. No crato de crato para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato para Juazeiro. Depois do crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato para Juazeiro. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Eu tinha só 13 anos, você pode acreditar. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Tava no crato de crato para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato para Juazeiro. Para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato para Juazeiro. Depois do crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato para Juazeiro. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Parti para o Juazeiro pensando em trabalhar. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Fiquei com a minha tia na roça, eu fui plantar. A vida tava tão boa, pra quem tava no crato de crato para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato para Juazeiro. Depois do crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato para Juazeiro. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Esse coque é todo meu, você pode acreditar. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Canto coque, canto roda, para a moçada brincar. A vida Juazeiro. Depois do Crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o Crato, do Crato para Juazeiro. Eccoci, eccoci, si torna in voce. Sono Addu, siamo qui su Nervature. Vi stiamo parlando di oggi, non tanto di piante, oggi un po' sì, ma soprattutto di biologia e in particolare di ingegneria genetica, questa cosa molto strana. E in particolare, ancora più in particolare, di CRISPR. Ora entreremo, ora, fra pochissimo. Entreremo proprio nello specifico a vedere come, più o meno, ovviamente, come funziona CRISPR. Ovviamente nello specifico, specifico lo so nemmeno io, mica me lo chiederete, dai. Però un po', insomma, un pochino. E insomma, siete sempre qui su Wombat, forse dal sito radiowombat.net oppure dalle frequenze AM sul 1359. Vi ricordo che se volete dirmi che devo chetarmi, oppure che faccio schifo, oppure che mi amate tantissimo, me lo potete dire sul pad, che è il nostro, diciamo, file di testo pubblico online, dove potete scrivere senza pigiare invio e nulla. Scrivete e io vedo subito. E ci arrivate da digitando, com'era? Diretta wombat.vado.li, oppure forse se vi torna più comodo dal sito appunto radiowombat.net. quando pigiate sul tastone per ascoltare lo streaming, lì sotto poi vi verrà anche questo stesso link a cui appunto accedete al pad. Ci cliccate, vi si apre un'altra scheda e accedete al pad. Siamo sempre qui, ascoltateci, mi raccomando, fissi. Cioè, ora, quando io finisco, mica dovete spengere la radio, No, cioè, no, non esiste. Rimanete lì, connessi, connesse, connessu, mi raccomando. Perché Radio Wombat è sempre, sempre accesa. Sempre. No, ragazzi, sempre. Ve lo giuro. Cioè, c'è sempre bobina, canzoni, trasmissioni, voci, spottini, notizie, di tutto, cioè vi conviene, tanta roba, ve lo giuro. E quindi dopo un po' di ovviamente necessaria pubblicità, perché dai, bisogna farla un po' di pubblicità, se non degli altri, ma di noi va fatta. E ciao cari, vi saluto al pad, che bello, grazie di dirmi che sono bentornata. Z punto, chissà chi è, io lo so chi sei. E appunto, forse so anche te chi sei. E mi dite giustamente di dire i titoli delle canzoni, brave, perché me l'ero scordata. Allora, abbiamo sentito Mo Horizons, la prima era Como E.O.R. E invece questa l'avevo già presentata prima. La seconda, di cui non vi ho detto assolutamente niente ancora, ma ve lo dico ora, è Avida Tava Tao Boa, di Raíces de Arco Verde. Quindi, vabbè, si era sul brasileiro, come avete sentito. E, grazie, vi ringrazio un sacco per questi messaggi che mi state mandando sul pad, ma ora il proseguo lo leggo fra un attimo. Invece vorrei continuare un po' su quello che stavamo dicendo. Allora, mega riassuntone, quindi... la notizia incipit era che negli Stati Uniti adesso è entrata in commercio questa insalatina gourmet e quindi che è stata prodotta con la CRISPR, ovvero un tipo di ingegneria genetica e in particolare di editing genetico, quindi quella branca dell'ingegneria genetica che va a fare editing, ovvero che va a prendere proprio molto nello specifico delle sequenze di DNA, ovvero di codice genetico, ovvero di quell'enorme linguaggio, come stavamo dicendo, che è all'interno di ogni essere vivente, che ci fa essere quello che siamo, senza andare nel filosofico, cioè è proprio così, ci fa essere quello che siamo letteralmente, biologicamente, Quindi si prende una parte di DNA, ma molto precisa, proprio qualche sequenza, e si mettono in un altro essere vivente che però sia sessualmente compatibile. Cosa significa? Significa che si può accoppiare, questi due esseri viventi si possono accoppiare e generare un seme, nel caso delle piante, o comunque, vabbè, nel caso delle piante un seme che sia però fertile, perché i semi possono anche essere prodotti ma non essere fertili, e per tutta una serie di motivi. Cioè, a volte uno apre il seme ed è proprio vuoto, cioè c'è solo l'esocarpo, come si chiama, insomma, comunque l'involucro esterno. A volte uno l'apre, c'è comunque roba dentro, ma comunque non è fertile. Vabbè, comunque, quindi sessualmente compatibile significa produrre un seme fertile in un qualsiasi regno vitale, va bene? Animali, piante, batteri, quello che vi pare. Allora, quindi, cos'è questa CRISPR? Come vi ho accennato prima, è una nuova tecnologia, molto, molto nuova. Proprio si tratta di 2 anni fa, che è stata scoperta, fra virgolette, ora spiegavo meglio perché, comunque da quando si è iniziata a usare. E la CRISPR in realtà esiste già in natura, come un sacco di altre volte. Noi non abbiamo inventato un cazzo, ma siamo semplicemente riusciti a osservare meglio, che comunque è una cosa stralodevole, cioè non è che se allora non inventiamo, allora facciamo schifo. No, anzi, secondo me è quasi più lodevole il fatto di essersi accorti di qualcosa all'esterno di noi Homo sapiens che sia bello. Vabbè, non entriamo nel filosofico, è meglio così. Quindi comunque esiste già in natura. Dove? Nei batteri. Ovviamente, è tutto nei batteri. Cioè, saranno veramente minuscoli, eppure è tutto nei batteri. E cosa ci fanno i batteri? Praticamente i batteri lo usano sostanzialmente per difendersi dai virus. Quindi loro, abbiamo detto, no, che la CRISPR è quando innanzitutto si va a guardare una parte molto precisa, come si diceva, di DNA, e si va a tagliare proprio zac, così, tagliare via una parte con delle forbici, vengono chiamate forbici, giustamente, una volta tanto scelgono dei nomi sensati. Quindi i batteri lo usano in questo stesso modo contro i virus, quindi entra un virus nel batterio, quindi il batterio è infettato da un virus, va a, diciamo, produce queste forbici genetiche, vabbè, che vanno a tagliare proprio una parte del DNA del virus. Quindi sanno dove andare, si legano a quelle parti lì momentaneamente e tagliano i legami in cima e in fondo. Quindi tagliano via una parte. Non è finita qui però, perché nel caso dei batteri è veramente affascinante, è veramente incredibile. Sono veramente gli esseri incredibili, è un mondo talmente vasto. Praticamente con quelle sequenze di DNA non le buttano nel cesso, ma anzi la parte fondamentale arriva qui, perché se le ricordano, fra virgolette, se vogliamo dire ricordare, per fare un'analogia con gli esseri umani, comunque le inglobano all'interno di loro stessi e le tengono lì, così, come se fosse uno stoccaggio di materiale. Dici, boh, chissà, magari mi servirà. E infatti è proprio così, perché praticamente vengono stoccati in modo che quando poi in un futuro quello stesso virus, quello lì, proprio precisamente lui, quindi quella stessa specie di virus entra dentro di nuovo quel batterio, o anche i suoi figli, come vedremo, allora il batterio subito lo riconosce e sa già esattamente come sconfiggerlo. Quindi è, in questo senso, è una difesa contro il virus, non tanto nel primo momento in cui viene infettato, ma nei successivi. Perché anche i figli dei batteri, di quel batterio lì, se ne ricordano? Però perché questa sequenza del DNA del virus viene inserita all'interno delle sequenze del batterio stesso in questo modo, un modo un po' particolare, come se fosse così, A1, A2, A3, A4, eccetera, eccetera, dove praticamente A è una sequenza appunto sempre uguale e 1, 2, 3 sono parti delle sequenze del virus spezzettate. Non so perché, però fatto sta che lo stocca in questo modo, va bene? Perché ve lo dico, perché è carino da sapere, secondo me, perché questo è il modo in cui si sono accorti gli scienziati, quelli che sono bravi e studiano, di appunto dell'esistenza della CRISPR. Questa è avvenuta comunque molto piano piano. La prima volta è stata nell'87 in Giappone. Riprendo un attimo la cronologia, eccola lì. Sì, appunto nell'87 in Giappone, nell'università di Osaka, questo Yoshizomi Ozino studiava le Escherichia coli e si è accorto che c'erano queste sequenze intervallate da altre sequenze ripetute. Quindi, come si diceva, no? A1, A2, A3, quindi A sempre uguale, con in mezzo un'altra roba diversa. Lui ha notato sta cosa e ha detto, e è rimasto lì, e non ha fatto nient'altro. Vabbè, però, bravo, noi diciamoli bravo. Dopo, che è successo? Nel 93 in Olanda lavoravano sulla tubercolosi e uguale, stessa storia. Insomma, hanno visto queste sequenze, bella lì, ciao. Nel 2000 in Spagna studiavano gli archei, che sono un altro regno, però molto simile, molto vicino ai batteri. E anche qui trovano sequenze ripetute intervallate da altre sequenze, ma non solo. Qui si ha un po' un granellino in più. Vedono anche che queste sequenze sono copiate in RNA. Allora, cos'è l'RNA? Oh mamma! L'RNA è un po', diciamo, il cugino del DNA, ma che ne so, non so come definirlo. Comunque, fondamentalmente anche quella è codice genetico, che però viene usato in altro modo all'interno delle cellule, degli esseri viventi in generale, sia noi che le piante, un po' tutti, perché viene usato per le operazioni, diciamo, un po' come sui computer, che invece di fare CTRL-Z e eliminare il file, dici ma meglio CTRL-C, te lo copi, così che c'hai due copie, non si sa mai, no? L'RNA è la copia del DNA, più o meno uguale, vabbè, senza entrare nello specifico, non ci interessa. Quindi hanno visto in Spagna nel 2000 che queste venivano copiate in RNA. E era interessante, mettiamola così, intanto era interessante questo. Nel 2001, quindi diciamo già dal 2000, quindi si è iniziato a capire che tutto ciò iniziava a essere molto interessante e quindi si è iniziato a dargli un nome. È venuto fuori dopo varie altre proposte, che non vi dico perché erano un po' ridicole, SR era una, ma che cazzo vuol dire? È venuto fuori CRISPR, che comunque, che cazzo vuol dire? Cioè, ma che nome è? Però vuol dire Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Bene, CRISPR è meglio. Quindi gli hanno dato sto nome nel 2001. E poi si è continuato comunque la ricerca ovviamente negli anni. Quindi nel 2011 dei microbiologi, studiando come i batteri si difendono dai fagi, ovvero da virus, quindi ecco, si diceva prima, no? E, scoprono che i batteri avevano questa forbice molecolare. Quindi se ne è già parlato prima, no? Proprio l'aggeggio che va lì a tagliare via una sequenza di DNA viene chiamata forbice, grazie a Dio gli hanno dato un nome sensato, e hanno visto che avevano i batteri queste forbici molecolari. E quindi poi è stato però nel 2021, diciamo l'evento clou, quindi solo 2 anni fa, è veramente recente, che queste due scienziate, Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, hanno iniziato a collaborare insieme e fondamentalmente già si stava facendo ricerca sulla CRISPR, quindi dal 2000, si è detto, 2000-2011, perché si era capito che era interessante. loro finalmente capiscono come usarla. Quindi direi che è un passo importante. Oltretutto anche interessante la storia, perché loro comunque, vabbè, erano già scienziate di fama mondiale, ora insomma, comunque nel loro campo erano conosciute. Però fatto sta che questa ricerca con cui poi hanno capito come usare la CRISPR l'hanno fatta con veramente pochi fondi. Perché? Perché purtroppo la ricerca universitaria a volte funziona così, non c'era un fine, diciamo, visibile che potesse essere interessante per nessun tipo di ente che, finanziatore, diciamo. Quindi fondamentalmente c'erano pochi fondi, perché per il momento non interessava a nessuno, e quindi loro hanno lavorato con quello che avevano, nonostante ciò sono arrivati al risultato, quindi molto bello. Ora, magari uno dei motivi per cui sono arrivati al risultato è che, come accennavamo già prima, la CRISPR è una tecnica di lavoro molto poco costosa, a differenza delle altre precedenti tipi di editing genetico che conoscevamo. Quindi magari anche per questo. Comunque, figo. Quindi, allora, stavamo dicendo, ero partita con la storia perché ci stava, mi sembrava interessante, però volevo un attimo finire, quindi come funziona questa CRISPR. Allora, avevamo detto, no? Che arriva il virus, infetta il batterio arriva lì, si incazza un sacco. Va a tagliare una parte di DNA del virus. Nel frattempo, anche tramite altre robe, comunque riesce a sconfiggerlo. Se riesce a sconfiggerlo, quindi il batterio sopravvive, quelle parti di DNA del virus le ingloba all'interno del proprio codice genetico, nel modo che si era detto, a 1, a 2, a 3, vabbè. Una volta che quindi la inglobate, però, quando il batterio si riprodurrà e creerà nuovi figli, quei figli pure ce l'avranno dentro. Quindi il batterio, nel riprodursi, tramanda queste sequenze. E la cosa interessante è perché almeno i suoi figli e i figli dei figli e i figli dei figli dei figli e così via ce l'hanno queste sequenze e potranno all'infinito sconfiggere quel virus. È una cosa molto interessante perché se... vabbè, questo è un discorso generale sull'ingegneria genetica. Una volta che uno va a modificare una specie, non sempre però può anche, allora, non sempre però quelle modifiche possono essere tramandate nei figli, possono essere tramandate se quella specie viene fuori è fertile, perché a volte, anche classico esempio per dire, con gli OGM si veniva a creare specie non erano più fertili, quindi non potevano più riprodursi, però vabbè, è pace. Ma invece in questo caso la CRISPR è interessante perché comunque, appunto, uno può anche pensare che fa ricerca e che quella ricerca magari serve anche a qualcosa. Allora, quindi quando uno dei figli del batterio è infettato riesce comunque a difendersi. Cosa succede in particolare nel momento dell'infezione da parte del virus? Il batterio si accorge dell'infezione e si accorge che quel virus lì già lo conosce, dice: ma questo mi puzza, ma io lui l'ho bell'e visto, senti. Va a copiare quindi quelle sequenze di DNA che fanno parte anche del DNA del virus, le copia in RNA, come si diceva, il quale RNA a questo punto verrà chiamato RNA guida. Perché guida? Perché va a attaccarsi a un altro, come si chiama prima, aggeggio, che è quello della forbice molecolare. Questa viene anche chiamata Cas9, vabbè, il nome gli hanno dato. E quindi RNA guida e Cas9 si legano, e così la Cas9, che l'unica cosa che sa fare è tagliare, ok, quindi rompere dei legami all'interno del DNA, si lega a una guida che sarà quella che lo porta all'interno del virus e gli dirà: lì, scegli quel punto. Lui arriva, si lega momentaneamente a quel punto e taglia in cima in fondo. E così sconfigge il virus. Questo è proprio il metodo con cui funziona. Questa cosa noi l'abbiamo replicata. Quindi una volta che la Dudna e la Charpentier hanno visto, avevano già visto questa cosa, ma una volta hanno capito come usarla, appunto noi cosa facciamo? La replichiamo, quindi replichiamo una cosa che già esiste in natura, molto bravi, bella, lì la facciamo anche noi, yeah. E quindi, che succede? Come viene usata questa cosa? Può essere usata in tanti modi, può essere usata in tanti modi, sì. E se vogliamo un po' vedere come, e come cosa, come è stata usata e come potrà essere usata, entriamo un po' in vari ambiti. Ovviamente si parla innanzitutto di ricerca, in generale proprio, quindi ricerca in vari ambiti, che può essere, classico esempio, medicina. Quindi medicina umana si intende, oppure biologia, per cosa? Per, il classico è ovviamente creare delle specie che possano essere produttive, magari alimentari, ma magari non per forza, magari le specie di qualche pianta che ci servono per la produzione di qualche materia prima, che ne so. E quindi, fondamentalmente aumentare la produzione, aumentare i profitti, di solito si punta sempre a quello. Oppure può anche essere per scopi un po' più nobili, se vogliamo, o che fanno finta di essere nobili, tra cui, per dire, preservare una certa varietà di qualche specie. Nel caso dell'Italia molto molto molto spesso si parla della vite, perché comunque il mercato del vino è veramente un mercato che va parecchio in Italia, che dà tanti profitti, a cui siamo tutti molto interessati, dal basso fino all'alto siamo tutti molto interessati, e quindi ci si fa tanta ricerca, tanta, ora relativamente siamo comunque in Italia, ma vabbè. Quindi si sta parlando, per dire, di usare la CRISPR per trovare delle o nuove varietà, ma più che altro per modificare e rendere più resistenti, editare e rendere più resistenti delle varietà già esistenti. Che giro di parole. Magari, appunto, vi dicevo, no, le vogliono far passare come robe, scopi un po' più nobili. Perché dicono, ma questa varietà è una varietà antica, cioè incredibile, pazzesca, ma la vogliamo perdere? No, non sia mai, figuriamoci, invece di fare le coltivazioni intensive, di smettere di farle, no, andiamo a fare l'editing genetico, mi sembra una cosa molto più sensata, no? Vabbè, quindi c'è interesse da questo punto di vista, perché non si vuole che queste varietà vengano perse, perché magari, appunto, che ne so, è arrivato il nuovo predatore dalla Cina, da ovviamente la Cina, no? È sempre il colpevole, comunque dall'Oriente o piuttosto che dal Sud America o da dove vi pare, che sta facendo strage e quindi non si riesce più a raccogliere una ceppa. Varie ragioni, insomma. Poi magari fra pochino direi di fare qualche esempio un po' più preciso, però per ora facciamo un'altra piccola pausa, che ne dite? Vi mando un altro brano, vi manderei, per uscire un po' dal brasiliano ma in realtà restare sull'atmosfera, Scandalize Me di Rafael Gualazzi, un frizzantissimo Rafael Gualazzi di un po' di anni fa, siamo intorno al 2010, mi pare, 11 forse. Bye. from stars above. Break me up, hold me tight. Everything's gonna be alright. Scream my faults, make me ashamed. Try to cut down, baby, skin. Cast me into a cruel world. Your mind's full of misery. Look, I'm on a TV show. They don't sell eternity. Why shouldn't I love you here beside the church of God? Ma che carino questa canzone, bella, bella, bella, mi piace, frizzante, come dicevo. E, continuiamo? Che ne dite? Continuiamo? Ula, aspettate, non ho guardato il pad, non so se mi avete scritto cose. Ciao Addu, bella musica, interessante argomento, allora insalatina stasera. Eh sì, certo, chi vuole mangiarvi la carne? Au, mondo state? No, no, insalatina, Brave, brave, bravi, bravo, non so chi me l'ha scritto in realtà. Buono, allora, stavamo dicendo, cari ascoltatori di Radio Wombat, ripetiamo, Wombat, mi raccomando, qui bisogna far pubblicità, io la faccio a voi, ma voi la fate altri. No, perché scusate, la radio libera, autogestita, vi rendete conto? Di Firenze, no, è una cosa incredibile, voglio dire. E poi, se siete bravi ascoltatori, già saprete benissimo che è piena questa radio di tante altre trasmissioni molto appassionanti, molto divertenti, molto interessanti, molto inquietanti, a seconda degli argomenti che si scelgono, ma sempre belle, quindi vale la pena. Dicevamo, no? Cosa dicevamo? Dicevamo che la CRISPR, ovvero quindi quella tecnica di editing genetico, viene usata dal 2021 ormai, quando la Dudna e la Charpentier hanno capito come usarla, queste due scienziate, una della California, l'altra tedesca, brave, hanno fatto un'ottima collaborazione. Quindi hanno capito come usare questa tecnica che, ricordiamo, appunto avevamo osservato nei batteri. Quindi loro già erano molto più competenti di noi nel difendersi da altri esseri indesiderati, tipo virus, brutti virus. E quindi niente, loro hanno capito come usarla. E quindi che ce frega a noi? Ce frega perché innanzitutto può essere molto utile, molto comoda in medicina o, vabbè, magari più che altro potrà essere molto utile e comoda in medicina. Infatti ancora siamo al punto della ricerca, però se ne sta facendo tanta, perché ricordiamo la CRISPR è un CRISPR-Cas9, quindi CRISPR più forbice molecolare, è una tecnologia di editing genetico molto poco costosa, perciò a differenza dei tipo di zinco che venivano usati prima, che erano proteine, insomma un casino, le proteine sono molto molecole molto grandi, complesse, e quindi erano molto più difficili da sintetizzare, da usare, da mobilitare, diciamo. Invece in questa fase è più semplice, perché si tratta di RNA e questa forbice molecolare, appunto la Cas9, Cas9 sarebbe. Quindi ci sta facendo tanta ricerca, perché può essere interessante da tanti punti di vista nella medicina. Per esempio, quello che a me sembra, non lo so, scusate, mi sembra il più incredibile è che, per esempio, potrebbero essere... ora, io parlo dal punto di vista scientifico, non voglio rompimenti di cazzi filosofici, va bene? Quindi l'etica a domani, ok? Si porta a domani. Ma stavo dicendo, interessante, perché potrebbero essere curate delle malattie genetiche. Quindi tutte quelle malattie che esistono in una persona perché stanno scritte nel suo DNA. Non voglio dire che quella persona è sbagliata, io non voglio dire questa cosa, non è così. Dico solo che purtroppo viene chiamata malattia, non so che facci, ma viene chiamata così. Quindi invece di avere ATGGCA nel DNA, va bene, c'è ATGGCC, che cazzo ne so, sto inventando ovviamente, comunque fatto sta che quel gene è diverso e perciò c'è quella che viene chiamata malattia genetica. Con la CRISPR potrebbe essere curata, anche lì grande virgolette curata, cioè lì appunto si entra nella parte etica, che ora, a parte scherzi, è veramente interessante parlarne anche da quel punto di vista, perché comunque cioè si parla sempre di sviluppo, crescita, ricerca, evoluzione, evoluzione tecnologica intendo, però io tutte le volte mi chiedo, ma è davvero necessaria? Tipo l'esempio che facevo prima, è davvero necessario far sì che quella varietà di vite non sia più, che ne so, suscettibile agli attacchi di quel parassita? O piuttosto magari sarebbe più carino trovare degli altri metodi di coltivazione meno invasivi, meno intensivi, meno forti in generale? È da chiederselo comunque, perché se l'umano ha un impatto così forte sulla natura, come sul mondo, insomma, come sappiamo e vediamo perfettamente che ha, forse sono altri da cambiare gli atteggiamenti, non questi. Vabbè, quindi la butto lì. Magari per fare discorsi etici, filosofici da sola è un po' complicato, magari avrò bisogno di qualcun altro, chi lo sa. Altri tipi invece di campi in cui la CRISPR può essere interessante nella medicina, si è parlato per esempio dell'AIDS. Quindi l'AIDS è un virus che entra nel corpo di un essere umano e che però non si manifesta subito, come tanti altri virus, ha latenza, quindi niente, sta lì per un po' e quando c'ha voglia si manifesta, ovvero fa casino, ammazza tutti, dà problemi, eccetera, eccetera. Però proprio perché ha latenza, se noi conosciamo qual è il codice genetico del virus dell'HIV, magari riusciamo anche a creare qualcosa per cui le nostre cellule se lo vanno a cercare e quindi poi lo uccidano prima che questo si manifesti. Sarebbe una figata comunque. Oppure, vabbè, ora le sto buttando lì, questi sono tutti i campi di ricerca, o comunque diciamo in generale i campi della medicina in cui si potrebbe fare ricerca. Magari ancora non si sta facendo, ma si potrebbe fare, per utilizzare la CRISPR. Quindi dicevo, all'interno del sistema immunitario, quindi in generale, si può magari fare in modo che questo vada ad attaccare le cellule tumorali, perché rileviamo, riusciamo a vedere qual è la differenza fra cellula sana e cellula dello stesso tipo nel nostro corpo, quindi che fa le stesse cose nel nostro corpo, ma tumorale, quindi difettata, no? E quindi magari si può andare a attaccare, a distruggere, e quindi a distruggere il tumore tramite la nostra stessa forza. Bello, bello sarebbe. Oppure creare, tutt'altro campo, creare gli organoidi, che sono delle repliche dei nostri tessuti, che ne so, tipo il nostro tessuto muscolare o qualcos'altro, non lo so. E quindi si riescono magari a replicare i tessuti nostri, ma all'esterno di noi, quindi tenerli lì in laboratorio e fare sperimentazione su quelli. Questa è roba classica, insomma, invece di sperimentare direttamente sugli esseri umani, che ovviamente è un argomento ancora molto molto delicato o per non dire intoccabile, giustamente si preferisce farlo su altre cose, tra cui altri esseri viventi, ma vabbè. Oppure si potrebbe, sempre con un fine medico, produrre quelle, boh, a me sembra un po' buffo, ma vengono chiamate fabbriche vegetali, quindi produrre una serie di piante, quindi appunto vegetali, che siano in grado, per loro funzionamento, quindi col loro metabolismo, di produrre qualche molecola, non so, qualcosa che ci faccia comodo a noi, quindi che noi possiamo usare come medicina, quindi andare a editare geneticamente delle piante che quindi noi possiamo portare, possiamo far sì, insomma, che queste producano roba che ci serve. E questo era per quanto riguarda il campo della medicina. Si è sforato ovviamente un po' anche però nel campo della biologia, quindi andare a modificare, editare, delle piante. Questo, come si diceva, può essere molto interessante, appunto, campo biologia. E non solo nel caso delle piante, però, si è già discusso, il che è davvero inquietante, mamma mia se è inquietante, sul modificare delle razze animali, ma non è inquietante questa cosa in sé, il fatto è quali razze, perché ci è venuto in mente di modificare proprio quelle razze lì. Allora, due sono gli esempi, due sono i casi. Uno erano le zanzare della malaria, quindi andarle a editare affinché, per esempio, quella zanzara femmina poi, accoppiandosi con altre zanzare maschio, possa dare origine a altri zanzarini, piccolini, super fastidiosini, ma zanzarini, che magari non sono più fertili, quindi sono sterili, e che quindi non possono più riprodursi oltre. Che succederebbe? Succederebbe che quindi la popolazione delle zanzare si estinguerebbe dopo poco. Ora, non so se ci si riesce a rendere conto dell'entità di questa cosa, ma stiamo parlando di estinzione. Per carità, se ne è già provocate tante di estinzioni noi, e lo sappiamo benissimo. Purtroppo se ne è provocate tante, ma vogliamo davvero provocarne un'altra intenzionalmente? Davvero lo vogliamo fare? Boh, cioè, ovviamente la malaria è una grossa piaga, cioè lo sappiamo tutti, ammazza migliaia, decine di migliaia, non so quanti bambini, ma non solo bambini, cioè fanculo bambini, tutti, cioè, che cavolo, in Africa e in altri posti, quindi ovviamente una piaga. Però io ritorno sempre al mio solito punto, forse sicuramente bisogna fare qualcosa per risolvere la situazione, ma magari non è andare a editare o modificare, insomma, altri esseri viventi, magari è fare qualcosa, magari, non so, politiche, forse, qualche, non lo so, politica economica, sociale addirittura, per migliorare questo argomento, forse sarebbe meglio, non lo so. Vabbè, appunto, argomenti complessi. Oppure l'altro caso, invece non c'entra nulla le zanzare. Ah, tra l'altro, però, nel caso delle zanzare c'è peso, perché comunque zanzare, come sappiamo benissimo, sono tante, tante, tante, soprattutto dove c'è sviluppata la malaria, quindi in ambienti più tropicali, ce n'è un botto, perché appunto c'è caldo umido, quindi loro trovano il loro ambientino in cui sguazzano alla meraviglia e riescono a riprodursi un sacco, ma se si riproducono un sacco e non hanno conquistato il mondo, vuol dire che comunque ci sarà qualcun altro e ne beneficia. Cioè ci sarà qualche altro essere vivente, così la sparo a caso, magari pipistrelli, moschine, ragnetti, che ne beneficiano. Quindi se si va a estinguere solamente una popolazione del genere, non penso che le conseguenze siano zero. Un po' la stessa cosa avviene in quest'altro secondo caso, che è siamo in Floreana, come si chiama? Floreana Island, quindi un'isola all'interno degli Stati Uniti, in cui praticamente c'è anche lì un'altra piaga, che è quella dei topi, ratti anzi, in particolare questi topi molto grossi, che praticamente hanno invaso l'isola. Prima non c'erano, quel tipo lì di ratti non c'erano, ma sono arrivati ovviamente tramite le navi, commercio, scambi, movimentazione di persone, di merci, di cose. Quindi sono arrivati sull'isola e stanno un po' facendo piazza pulita, nel senso che stanno mangiando un sacco di altre specie, mangiando un sacco di altre piante, si stanno riproducendo a dismisura, perché comunque lì è un'isola anche lì un po' più a sud rispetto alle nostre latitudini, quindi c'è molta fertilità, c'è molto cibo, bla bla bla, stanno proliferando insomma un sacco, ed è proprio una piaga. E appunto diverse specie, già animali e vegetali, si sono già estinte a causa di sembrerebbe a causa di questi ratti su questa Floreana Island. E lì appunto è sorto il dubbio di, cioè diciamo c'è il dibattito, c'è la problematica, per cui da un po' si sta parlando di come risolvere questo problema. E vi dico anche che una delle proposte erano venute fuori, lì mi metto ancora di più le mani nei capelli, era di arrivare con dei semplicissimi elicotteri o aerei e semplicemente spargere ovunque veleno per topi, cioè buttare giù a cascata questi pippolini, questi pellettatini di pilloline di veleno per topi. Ora dico, ma che botta ci sa veramente? Boh. Ora, chiaramente, ovviamente, prima, cioè, non è stata fatta, almeno che io sappia, non lo so, sta cosa, perciò, perché comunque era un casino, cioè, ovviamente prima dovevano far evacuare tutti gli umani dalla zona, ma beh, vorrei anche sperare che uno, boh, non so, magari proteggere altri tipi di soggetti sensibili, non so, altri animali potrebbero morire con questo veleno, non lo so, o che magari sta roba va a inquinare un monte le falde, va a inquinare un monte i terreni, boh, cioè mi sembra anche questo un po' aggressive come metodo. E questo insomma, anche qui, insomma, un po' peso. Però se non con il veleno per topi, l'altra idea, un po' come uguale come con le zanzare, era di creare dei topi, ratti che tipo appunto poi rendessero tutta la popolazione sterile, che quindi non potessero più riprodursi. E questo è quanto. No, invece altri esempi in cui la CRISPR può essere interessante è come, vabbè, l'ho già detto più volte, lo so, è quello per andare a editare specie vegetali affinché possano essere più interessanti per noi umani egocentrici. E vi faccio un po' di esempi, che comunque sono carini. Primo fra tutti, questo esempio che, miseriaccia, è importante, è importantissimo, ma che tutti si scagano ovviamente, che non è la fottutissima insalatina gourmet, ma è un'altra specie che è già stata editata e già è entrata sul mercato statunitense. Si tratta ovviamente di una specie di fungo, quindi di un, viene chiamato white button, penso siano tipo gli champignon, insomma, lì si trovano le hoppe, ai coppe, no, non solo ai coppe, ovviamente, a tutti i supermercati. Quelli, i funghi bianchi, i champignon, vabbè, classici. E quello lì era già stato editato un po' di tempo fa, da qui... Oh mamma, scusate, ho toccato il microfono. Da questo Inong Yang, che è un, uno studioso in Pennsylvania, in un'università degli Stati Uniti, e l'aveva insomma editato creando sto fungo leggermente diverso che voi vi chiederete, wow, chissà cosa faceva, magari... Non so, riusciva a volare, magari riusciva a sparare le sue spore su Marte, magari si accoppiava con le api, che ne so, no. Semplicemente, semplicemente non anneriva, cioè anneriva un pochino meno. Quindi avete visto, no? I funghi li tagliate o comunque li lasciate all'aria e diventano tutti marroncini, un po' schifosini. Perché si ossidano, entrano in contatto con l'ossigeno, si ossidano e quindi diventano marroncini, tipo le mele. Quando tagli la mela ti dicono di buttarci il limone perché almeno fa reazione. Vabbè, non si ossida. I funghi fanno uguale, questa cosa non è ovviamente gradita nel commercio perché chi se li compra dei funghi e so già marroncini? Eh no, io li voglio tutti bianchi lucenti. Scusa. O più buoni, in realtà cambia poco, ma... E quindi, vabbè, la notizia è carina, nel senso che mi stupisce il fatto che nessuno parla di sta cosa perché si tratta di un fungo, mentre invece della notizia delle piante, dell'insalata gourmet è venuta fuori. Poi magari, non so, poi magari non è arrivata alle mie orecchie, alle vostre sì, può essere, magari mi sbaglio. Comunque era carina. E, invece, altri esempi di... Si tratta ancora di ricerca, e anzi in questo caso ancora prima della ricerca, siamo un pochino più sul dibattito etico ancora. C'è il progetto di questa Alison Van allora, Van Enenam, coordinatrice del programma NRSP, vabbè, del genoma zootecnico del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, quindi vabbè, si tratta comunque di roba importante, cioè non è l'ultima arrivata, che aveva proposto di modificare, editare geneticamente le mucche, le vacche da latte, affinché non sviluppassero le corna o che comunque le sviluppassero molto poco sporgenti, per esempio, perché un classico problema è che le mucche tenute in allevamenti intensivi sono incazzate dure, poverine, ci credo, e vogliono, insomma, sono aggressive fra di loro, quindi si scontrano fra di loro, a volte si creano dei danni, insomma. Ovviamente è una cosa che non si vuole che succeda negli allevamenti intensivi. Altro esempio, si cerca di creare delle varietà di grano che contengono molto molto poco glutine, o zero glutine è difficile, ma comunque che ne contengano meno, quindi che siano meno... che si possano anche vendere come gluten free, quindi per i celiaci, oppure altre varietà sempre di grano, oppure di pomodoro, di basilico, insomma varie altre specie che possono essere resistenti a specie parassite, per un'ospora piuttosto che altri parassiti per insetti, oppure che siano più resistenti a siccità. Anche lì chiaramente il tema dei cambiamenti climatici, si fa sempre più verso il caldo, fa sempre più caldo, mo io sto sudando un monte, non so voi, ma fa un caldo boia, e così. Oppure altre nuove varietà di sempre mais, che possono essere anche lì più resistenti a tutte le varie numerosissime malattie del mais. Oppure, questo magari ci interessa un po' di più perché siamo un po' più golosini, magari delle more o lamponi senza semi. No, scusate, more senza semi, lamponi già sono senza semi, ma lamponi di altri colori, non so perché dovrebbe interessare sta cosa, ma boh, lamponi neri, vabbè, non lo so, contro il razzismo magari, chi lo sa. Oppure delle ciliegie senza nocciolo, maiala, sarebbe bellissimo. vabbè, forse bisogna un po' tralasciare le nostre voglie egocentriche, magari sì. Oppure, come è stato fatto per i white button, il fungo, lo champignon, uguale si sta studiando per farlo sulle mele, quindi delle mele che non anneriscano un granché. E vabbè, se proprio ce n'è bisogno, non lo so. Cioè, io se taglio una mela me la mangio di solito, non è che la lascio lì annerire. Se proprio proprio ci metto il limone. Ma comunque la posso anche mangiare se è un po' annerita, cioè, vabbè. E questi, appunto, sono vari piccoli esempi che vi volevo portare. Oltre a questo, mi interessava anche, a proposito sempre della nostra insalatina gourmet, che ormai abbiamo già deciso e stabilito che ci mangeremo fra molto poco, se non già adesso, magari voi la stai già mangiando. Bravi, che fame. Questa insalatina gourmet è stata prodotta da un'azienda che si chiama Pairwise, Pairwiesen, no, è statunitense, quindi Pairwise, che è questa azienda che è nata proprio con lo scopo di fare ricerca o fondamentalmente finanziare ricerche su editing genetico per creare appunto varie specie animali, vegetali, quello che c'è, che possono essere interessanti. E quindi ha prodotto questa insalata gourmet. Questa rientra all'interno di un marchio che quindi questa Pairwise ha deciso di creare, che si chiama, attenzione, Conscious Foods. Quindi cibo cosciente. Boh, negli Stati Uniti sono strani comunque. Cibo cosciente. Non lo so. Forse questa insalata gourmet si anima dentro il nostro stomaco. Boh, si mette a fare i balletti. Non lo so. Vabbè, hanno creato comunque questo marchio perché è proprio un'azienda che vuole, sì, va bene, finanziare la ricerca, tutto molto bello, ma fondamentalmente vuole produrre e vendere, o comunque far vendere altre aziende che hanno lavorato con lei. Vabbè, comunque siamo sempre sul discorso di vendere. Quindi vi dico questa cosa, a parte le critiche che uno può fare al sistema, va bene, ma più che altro perché mi sembrava che così si potesse davvero arrivare a capire molto da vicino come mai queste nuove tecnologie tipo della CRISPR o in generale dell'editing genetico siano interessanti e siano non lontane comunque dal nostro mondo di tutti i giorni. Proprio perché appunto possono effettivamente portare davvero a delle conseguenze, a creare davvero degli esseri viventi che siano diversi da quelli prima. Poi magari sono poco diversi, come si diceva, non è così invasiva come gli OGM, va bene, però comunque delle differenze ci saranno, se no non si creerebbero. Oltretutto, ve la butto lì, se volete andarvi a vedere il sito di questa Pairwise, non mi ricordo mai il sito, ma sì, pairwise.com, insomma, facile, lo trovate, easy. È molto simpatico perché tra tutti i vari slogan o frasi di effetto che ovviamente costellano sempre ormai tutti i siti internet, se entrate proprio nella sezione, mi sa che era quella tipo lavorare con noi, una cosa del genere, c'è tutta sta pagina in cui c'è varie inserzioni, titoli diciamo, in cui ti scrivono tipo più gusto, punto esclamativo, oppure dai più croccantezza, oppure rendi il tuo colore più vivido, rendi il colore più vivido, oppure tutta roba del genere. Cioè, sembra una roba tipo, che ne so, tipo videogioco, cioè quei videogiochi stupidi, no? Che fai fare le cose agli omini. Sì, voglio comprare questo, sì, voglio fare questo. Cioè, sembra proprio davvero, io vado lì e niente, mi piglia bene farmi la mia ciliegia senza semi, vado lì, clicco sul sito e bam, si fa. Ovviamente non è così, è chiaro, però è interessante come una cosa così complicata come l'editing genetico e la CRISPR, ora vabbè sì, la CRISPR è più semplice degli altri, delle altre tecnologie di editing genetico che conoscevamo prima, ma insomma, cioè io sì, però parlavo un po', sì, ma penso le cose siano più complicate comunque. È interessante, è buffo vedere come di queste cose che in origine sono davvero complicate, cioè botanici, non botanici, scusate, biologi devono occuparsene, ma di alto livello, e invece su un sito che tutti possono aprire e nel sito di un'azienda a cui tutti si possono rivolgere, immagino, venga invece trasmessa in questo modo. Quindi venga un po' appiattito tutta la parte di complessità che ha intrinsecamente questo argomento, perché si sta parlando proprio di DNA, cioè di informazione genetica, quindi proprio di ciò che di più vero esiste al mondo, secondo la mia visione perlomeno, e loro invece la fanno passare come basta un click, tipo. È interessante, è interessante. Io vi sto per salutare, devo dirvi la verità. Sono già, wow, mi faccio l'applauso da sola. Sono arrivata a più di un'ora e mezza, ma sono proprio brava, dai. Ma ancora non vi saluto. Ancora vi faccio sentire un altro pezzettino, perché a me piace tanto anche la musica, comunque. Non sono in grado di fare una trasmissione musicale, poi Wombat già ce n'ha tante bellissime, quindi non mi inserirei io in questo già ricco contenitore di musica, però vabbè, per lo spazio che ho mi piace comunque farvi sentire cosine che io reputo carine. E quindi vi farei sentire una One Love di, non Bob Marley, no, ma di Sara Tavares. Pretty da ba da da da da. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Oh na na na. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Si maestas in English, I love you, I need you. Quero dizer também em português, te amo. Eu te preciso. E não há nada que levar a mal. Que manos é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. I really love you, I love you. You know I need you, I can't live without. Como tu, cá tem ninguém se mapou. Ui, ei, cá tem ninguém se mapou. Cá tem ninguém se mapou. Na, na, na. Cá tem ninguém se mapou. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado de lá. Me dá bom e bom, mané, botá. Maybe together you and me, mi kumbo kumbo mi mi mabo yo mi tutu yo, ay ay yeah. I know you can understand me. Maybe juntos together forever happy. Yeah, you know I love you, I love you, I love you. I really love you, I love you. You know I need you, I can't live without you. No, I need you. Dai, non è male sta musica, no? Dai, sì che vi piace. Allora, sono sempre io, sono sempre Addu. Questa è la fine della prima puntata di questa nuova stagione, se vogliamo chiamarla così, di Nervature. Ma io vorrei comunque anche ricordare che è la nona puntata di tutta Nervature. Cioè, comunque siamo stati bravi, no? Dai, sì. Oggi quindi vi ho un po' parlato di, forse, non so, forse è strano aver iniziato la nuova stagione con un argomento così, così impegnativo. Boh, ormai è andata. Comunque vi ho parlato di ingegneria genetica, genome editing, CRISPR-Cas9, quindi questo nuovo metodo molto più semplice, che costa meno per fare genome editing e che quindi è anche molto più fattibile, molto più accessibile, forse. A proposito di questo, infatti, questa è l'ultima riflessione, spunto, diciamo, che volevo darvi, è che è una cosa di cui si sta parlando ovviamente nell'ambito scientifico dell'università, della ricerca, proprio questo fatto che CRISPR-Cas9 è così semplice. Ora, ripeto, fra virgolette, semplice, cioè, io non la saprei fare, non so voi, ma io non la saprei fare. Però, insomma, accessibile, come dicevamo. E infatti ci si sta chiedendo, questo magari, oltre a essere un punto di rivoluzione scientifica, tecnologica, per il fatto in sé, quindi per la tecnologia in sé, che è la CRISPR-Cas9, magari è una rivoluzione anche dal punto di vista che potrà essere usata da molte più persone, quindi potrebbe essere un tipo di conoscenza molto più diffuso, utilizzato, e questo mi sembra comunque una cosa sempre molto bella, molto costruttiva, utile, perché la conoscenza è da diffondere, cioè se anche su una radio come Wombat ci sono tante trasmissioni che vi parlano non solo di cazzi nostri ma anche di cose magari un po' più serie, è proprio per questo, perché la conoscenza va diffusa, è bello diffondere, è bello che ci siano scambi liberi, oltretutto liberi, e ripeto liberi, fra di noi, fra me e il mio amico, me e i miei genitori, me e anche lo sconosciuto incontrato per strada. Quindi è bello che ci sia possibilità di uno scambio così aperto. Questa era l'ultima riflessione che vi volevo lasciare, e l'ultima chicca anche, che di questo spero di poterne riparlare di nuovo, di questo argomento, appunto dell'accessibilità o non accessibilità, perché quello che mi piacerebbe fare è magari andare a chiedere un po' più nello specifico a gente che magari lavora più nel settore della ricerca, della biologia, della chimica, e lavora o studia anche, e per sapere un po' qual è il tipo di informazione che viene fatta riguardo all'interno proprio di questi ambiti. Perché io non ci sono in questi ambiti, se no magari ve l'avrei già detto, ma non ci sono. Mi interessano molto, ma non ci sono. Questo è quanto quindi per la trasmissione di oggi, e io sto per passare la palla a Topo Gig, quindi i miei due compagni sono già qui in studio. Che bello veramente essere qui su Radio Wombat, radio libera e autogestita di Firenze, dove c'è vita, c'è partecipazione, c'è persone, c'è scambi di informazione, come stavo dicendo. E quindi vi lascerei con un ultimo pezzo, così che si fa una trasmissione, una transizione, ecco, più cauta, diciamo. E io spero di risentirvi, o voi sperate di risentirmi, non lo so, settimana prossima, quindi proverò trasmettere appunto una volta a settimana, poi vabbè, magari ogni tanto potrebbe saltare, potrebbe diventare ogni due, ma comunque mi sentirete il lunedì dalle 7 alle diciamo 8:30, ma anche come oggi magari sforerà un po' di più, e spero di potervi tenere compagnia altre volte, e quindi vi lascio con un'altra meravigliosa voce femminile, vi metto Vasulina di Lura, lei è veramente angelica, veramente fantastica, e a brevissimo, mi raccomando, rimanete connessi su Radio Wombat, perché a brevissimo ci sarà Topo Gig. Ciao ciao! Sabotando.